Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas. Ultimo spazio del mese di gennaio con la Caritas nel nostro percorso settimanale alla ricerca, alla scoperta di diverse iniziative territoriali certamente, ma anche nazionali e internazionali. Lo sguardo oggi è locale, siamo in una parrocchia dove ancora la Caritas non c'era, e sì, perché sta per nascere, come ci racconta nel servizio Paola Sartore di Telechiara. Una nuova Caritas che nasce a Giatrina, succede a Tribano in provincia diocesi di Padova, dove la sfida alle povertà, siano esse materiali o spirituali, è diventata impegno comune e progetto concreto di solidarietà nel giro di un avvento. Già, perché la nuova Caritas interparrocchiale, in cui da pochi giorni si riconoscono Tribano, Olmo di Bagnoli di Sopra e San Luca di Tribano, è il frutto di una proposta nata proprio in chiesa nella prima domenica di avvento, una scommessa ed una sfida che i parrocchiani hanno accolto con il giusto spirito. Abbiamo fatto questa scommessa durante la prima domenica di avvento al posto della predica, ma a volte il Vangelo trova anche altra attualizzazione che non alle parole di un prete. Abbiamo distribuito a tutti i partecipanti all'assemblea un questionario con tre domande. La prima: conosci situazioni di disagio attorno a te? La seconda: e tu fai qualcosa? La terza: vuoi dare disponibilità scrivendo il tuo nome e un tuo riferimento per cominciare un'esperienza Caritas? La sfida è stata anche interessante, l'abbiamo vissuta anche volentieri, l'abbiamo fatto con gentilezza, senza pretendere niente da nessuno, e ci ha proprio anche entusiasmato come risposta. In effetti la risposta è stata decisamente lusinghiera. Dei 520 questionari distribuiti durante la messa, ben 363 sono infatti rientrati con risposte che dimostravano la voglia di starci e di starci consapevolmente. A partire dalla risposta alla prima domanda, quella che chiedeva alle persone se conoscessero situazioni di disagio intorno a loro, la metà delle risposte è stata affermativa e circostanziata, con una classifica del disagio che aveva nei primi tre posti anziani, famiglie in difficoltà, i giovani e il lavoro. Significativo anche quel 60% che alla domanda «e tu fai qualcosa?» ha risposto che non faceva nulla. Ed incoraggiante, molto incoraggiante, è stato il terzo punto, quello in cui chi lo desiderava poteva dare la propria disponibilità per iniziare a fare qualcosa insieme. Ben 93 persone infatti hanno risposto all'appello, qualcuno per fare, qualcun altro per saperne un po' di più. Ed è da questa disponibilità che è partita la vera scommessa, una scommessa formalizzata nel corso di una riunione in cui 60 persone hanno deciso di mettersi in gioco lungo un cammino da costruire ex novo, senza progetti o piani preordinati. Il primo passaggio che abbiamo fatto è stato di non rivolgerci ai soliti, ma di accogliere la disponibilità di chi avesse voluto darla. A quel questionario 93 persone hanno detto «sono interessato». E con loro, in base a quello che si aspettano, che sono capaci di fare, ai primi passaggi possibili che vediamo sono effettivamente possibili, macineremo qualche proposta, qualche risultato e qualche progetto, senza partire da idee preconfezionate mie o di qualcun altro. Una bella sfida per questa Caritas che nasce già nell'ottica della condivisione come patrimonio comune di tre parrocchie. Una sfida giocata sul fare, certamente, ma anche sull'annunciare. È importante fare, perché la dimensione Caritas nativamente ha questa forza, questa bellezza. Ma non può essere solo il fare, microprogetti, grandi progetti. Deve esserci anche l'annunciare, ovvero l'animazione di tutte le persone di un territorio, di una comunità cristiana, alla carità. Altrimenti cresciamo sempre con la mentalità della delega, che è sempre qualcun altro che deve fare. Mentre il primo passaggio di carità è accorgiti di chi ti sta accanto e fai non l'impossibile, ma almeno quello che puoi. Grazie Paolo Sartore di Telechiara, il servizio di presentazione della nascente Caritas parrocchiale di Tribano, e contiamo che anche in altre comunità dove ancora la Caritas non è stata attivata si possa seguire questo esempio. E anche la settimana prossima, in questo spazio settimanale, continueremo a conoscere il nostro territorio, la Caritas e le sue iniziative. Avete ascoltato? Prossimo tuo, rubrica in collaborazione con la Caritas.